e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, bentrovati da Deborah Rosciani a Cuore e Denari, come vi abbiamo già anticipato ieri con Nicoletta. Oggi sarò da sola a gestire l'intera puntata, Nicoletta torna domani, le auguriamo naturalmente buon lavoro, le esprimiamo come sempre tutta la mancanza che abbiamo nei suoi confronti. Detto questo, oggi comunque abbiamo come sempre temi di cuore e temi di denari. Per quello che riguarda il cuore, oggi parleremo della qualità dell'aria che respiriamo, un tema di grandissima attualità, naturalmente tutta legata anche alle condizioni meteo che non hanno ben spazzato via tutte le PM10 appunto in molte città italiane. Parleremo della qualità dell'aria che respiriamo fuori e dentro casa, poi rimarremo in casa, in modo particolare nella camera da letto, per capire se la qualità del nostro sonno è sufficiente per il nostro benessere. Per quello che riguarda invece la parte di denari, una seconda parte della trasmissione che sarà oggi particolarmente intensa, perché torniamo su un tema che a noi è particolarmente caro, il tema del lavoro. Ci stupisce sempre un po' tutta la serie di considerazioni e lamentele che ci arrivano da parte degli ascoltatori, tra quelli che non trovano lavoro, i disoccupati, quelli che invece fanno fatica dopo che si è chiusa un'esperienza professionale a ricollocarsi adeguatamente nel mercato del lavoro. Dall'altra parte continuiamo a ricevere lamentele e segnalazioni di aziende che invece vanno a caccia di curriculum e non trovano. Per cui oggi il tema della nostra seconda parte della trasmissione sarà: perché si fa fatica a realizzare questo match? Abbiamo veramente tantissima carne al fuoco e vi racconterò anche cosa è successo ieri, appunto, quando ho segnalato l'anticipazione di questo argomento su LinkedIn. È veramente venuto giù il mondo, come si dice qualche volta. Detto questo, per tutti questi argomenti, come sempre, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, ma ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Riceviamo i vostri sms, riceviamo anche i vostri messaggi su WhatsApp. Adesso siamo pronti per partire. Solo due segnalazioni veloci prima di andare ai due approfondimenti di cuore. La borsa oggi di nuovo positiva a Milano, più 0,6% per le crescite sui titoli del settore bancario, tanto per cambiare, ma oggi a spingere tutta l'Europa, anche Parigi e Francoforte guadagnano circa mezzo punto. Londra più 0,37%, i nuovi record registrati ieri sera da Wall Street, che ormai sembra inarrestabile, nonostante Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, abbia detto che è pronta ad un aumento dei tassi di interesse in marzo. Questa indicazione ha spinto verso l'alto il dollaro, l'euro è sceso a 1,0549, ma il mercato azionario non sembra minimamente turbato dalla prospettiva appunto di aumento dei tassi, di una politica monetaria restrittiva, segno che evidentemente si tratta di un'azione necessaria, perché comunque l'economia sta andando meglio. E vedremo poi Donald Trump alla prova dei fatti con i suoi programmi di stimoli fiscali. Un'altra segnalazione: oggi con il Sole 24 Ore trovate la guida ai bonus casa. Arrivano ad un inedito 85% le detrazioni in caso di interventi di prevenzione antisismica sulle parti comuni condominiali. È stato allargato anche il vantaggio fiscale per la riqualificazione energetica, che può arrivare, pensate, al 75% in condominio. Confermate anche le detrazioni del 50% e del 65%, ma solo per le spese effettuate quest'anno, quindi bisogna sbrigarsi per il recupero edilizio, il risparmio energetico effettuato sulle singole unità immobiliari, e poi c'è anche il bonus mobili. Quindi ricordate che oggi c'è questa guida in edicola con il Sole 24 Ore. Abbiamo già terminato la nostra velocissima rassegna stampa, andiamo subito al primo approfondimento di cuore. Torniamo a parlare di inquinamento. L'attualità lo impone, perché è in arrivo un nuovo ultimatum dalla Commissione europea all'Italia e ad altri paesi affinché agiscano per porre fine all'inquinamento dell'aria causato dalle emissioni di NO2, ovvero di biossido d'azoto. Martedì prossimo, salvo imprevisti, il Collegio dei Commissari approverà il passaggio alla seconda fase della procedura di infrazione già aperta nei confronti di Italia e di altri paesi come Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna. Questa volta la sgridata non riguarda solo noi. Nella lettera che partirà da Bruxelles si chiederà a Roma e alle altre capitali di far conoscere al più presto possibile quali provvedimenti intendano prendere per porre rimedio alla situazione. Noi commentiamo questa notizia con un gradito ritorno di Cuore e Denari, il dottor Gaetano Settimo, ricercatore del reparto igiene dell'aria del Dipartimento Ambiente e Salute e coordinatore del gruppo di studio nazionale sull'inquinamento indoor dell'IS. Buongiorno e bentornato, dottor Settimo. Buongiorno, Deborah. Buongiorno ai radioascoltatori. È un tema molto caro ai nostri ascoltatori, dottor Settimo, insomma, che si interrogano spesso sulla qualità dell'aria che respirano. Allora, la scorsa volta abbiamo iniziato il nostro speciale vocabolario che riguarda proprio le parole che girano attorno al tema dell'inquinamento. Oggi direi di continuare su questa strada spiegando in primo luogo cosa si cela dietro a questo acronimo, dietro a questa sintesi ai nostri ascoltatori. Che cos'è esattamente l'NO2, che riflessi ha sull'inquinamento e che rapporto ha anche con le PM10, no? Un valore che invece siamo più abituati a sentire. Dottor Settimo. Sì, quando parliamo di ossidi d'azoto parliamo del monossido di azoto, del biossido d'azoto, che sono normalmente prodotti non solo dai processi naturali come le combustioni legate alle emissioni vulcaniche, ma anche legate a tutte quelle emissioni di origine industriale, come le centrali elettriche, i processi industriali, ma anche i nostri riscaldamenti domestici, oltre alle sorgenti legate al traffico. Sono diciamo degli inquinanti che insieme al materiale particellare vengono emessi, quindi da tutti i processi di combustione, e che hanno poi una componente secondaria per la produzione del materiale particellare che viene definito di origine secondaria. Quindi è uno degli indicatori che insieme al PM10 costituiscono quegli inquinanti su cui c'è questa attenzione particolare, e come diceva giustamente lei, anche a livello europeo si sta mettendo in atto tutta una serie di azioni di riduzione continua di questi livelli. E infatti, insomma, provvedimenti da prendere sono inevitabili, mi sembra di capire, sì. E si sta lavorando molto su questo argomento, che diventa sempre più d'urgenza, soprattutto per il legame stretto che naturalmente c'è rispetto anche alle condizioni di salute di tutti noi. L'ultimo rapporto dell'Health Effects Institute dice che l'inquinamento è la quinta causa, dottor Settimo, di decesso globale, un dato che non è che ci faccia stare esattamente tranquilli. Sì, questo anche nella trasmissione di qualche settimana fa avevamo messo in evidenza quelli che sono i livelli ambientali misurati dalle nostre centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, e poi quello che è invece il nostro stile di vita, quindi la reale esposizione della popolazione. Chiaramente sull'inquinamento atmosferico dobbiamo fare ancora molto, anche perché nel 2013 l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro ha considerato l'inquinamento atmosferico come cancerogeno, e proprio per questo dobbiamo lavorare continuamente per ridurre il più possibile quelli che sono i livelli degli inquinanti che respiriamo, non solo in aria esterna ma anche all'interno delle nostre abitazioni. Bravo, infatti, dottor Settimo. Adesso il grosso del problema è legato proprio all'esposizione indoor, visto che noi abbiamo uno stile di vita che ci porta a restare all'interno dei vari ambienti indoor. Io lo chiamo numero magico, il 90% della nostra giornata. Io ci rifletto quando passo la polvere al pavimento, dottor Settimo, perché sul catturapolvere rimane tutto quello strato di nero che non si capisce da dove arrivi. Non abito in centro città, e però insomma evidentemente anche un po' di quelle cose che finiscono sul pavimento finiscono anche all'interno dei miei polmoni, anche se ritengo di essere protetta in casa. Esattamente, Deborah, lei metteva in evidenza proprio un aspetto di origine visiva. Quando noi spolveriamo, ritroviamo nella nostra cattura polveri o nello straccio uno strato nero. Quello è chiaramente un contributo legato alla polverosità, che dipende da sorgenti naturali, ma anche da tutte quelle sorgenti di origine industriale o legate al traffico o al riscaldamento, che ci espongono a tutta una serie di sostanze inquinanti. La differenza, tu mi dicevi che vivi in un'area che non è prettamente non è urbana, periferica, ma non è neanche è la caratterizzazione poi di questo materiale particellare. È proprio su questo aspetto sempre gli organismi internazionali pongono un forte accento su quella che poi è la differenza della caratterizzazione chimica del materiale particellare. Chiaro. Quello che misuro in un'area urbana come composizione chimica è completamente diversa da quella che posso misurare in un'area che non è sottoposta alla pressione di tutta una serie di sorgenti industriali. Dottor Settimo, prima di salutarci, l'Istituto Superiore di Sanità nei giorni scorsi ha presentato un vademecum dal titolo L'aria della nostra casa, come migliorarla. Ci dia tre dritte per piccoli interventi di manutenzione da fare. Mi rendo conto che molto spesso possono sembrare indicazioni di buonsenso banali, ma in realtà sono proprio tutte quelle azioni di buonsenso che non compiamo, che non facciamo appunto, e questo naturalmente ha tutto svantaggio della qualità che respiriamo, dell'aria che respiriamo anche all'interno di casa nostra. Sicuramente quando acquistiamo tutti i prodotti legati agli interventi di renovation, quindi di ristrutturazione o rinnovamento del nostro ambiente costruito, porre un occhio di riguardo a quelle che sono le caratteristiche di tutti i materiali che portiamo all'interno del nostro ambiente. Difficilmente noi, quando acquistiamo questi prodotti che vanno dalle vernici ai collanti, chiediamo informazioni di quelle che sono le caratteristiche emissive di questi prodotti. Quindi quando si fanno acquisti, chiedere informazioni se il prodotto ha una certificazione specifica sui livelli emissivi che sono previsti per legge, e chiedere quelle che possono essere anche indicazioni supplementari legate al contributo sui livelli di inquinamento indoor. Abbiamo alcuni paesi come la Francia, che ha prodotto una etichetta per tutti i materiali da costruzione che individua subito qual è il contributo di quel materiale, quindi di quella vernice all'inquinamento indoor che mi porta all'interno della mia abitazione. Possibilmente vietato fumare, non c'è neanche bisogno di sollevare l'argomento, direi che lo darei per scontato. Ecco. E poi un altro aspetto su cui abbiamo puntato molto è quello di sfatare alcuni miti come il pulito non ha odore, quindi questo utilizzo eccessivo di prodotti di largo consumo che vengono definite fregener, come deodoranti, bastoncini, incenso o candele, possono costituire un rischio, quindi porre attenzione. Ma lo stesso anche tutti questi detergenti che hanno una profumazione di bouquet naturali, possono costituire un rischio, quindi quando si utilizzano arieggiare prima di permanere. E poi leggere sempre attentamente quelle che sono le indicazioni del produttore che sono presenti nei contenitori. Chiarissimo. Non solo per le controindicazioni legate a un uso eccessivo, ma anche a quei consumi a cui noi spesso e volentieri non facciamo riferimento, come un maggior consumo di energia elettrica o di acqua. Grazie dottor Settimo, le dico che proprio un ascoltatore ci ha scritto: so che profumatori di ambiente sono molto molto inquinanti, le persone non lo sanno e alcuni li utilizzano costantemente. Grazie dottor Settimo per essere stato con noi. Adesso abbiamo il traffico, un ambiente sano è importante anche per riposare bene, e adesso della qualità del nostro sonno andremo a parlare. Cuore e denari. Eccoci ritrovati insieme, la nostra rassegna stampa prosegue velocemente, ci porta questa volta oltre oceano. La National Sleep Foundation, ente no profit che negli Stati Uniti si occupa della promozione del sonno nell'ambito di un corretto stile di vita, ha individuato 4 indicatori chiave della buona qualità del sonno, e noi li commentiamo subito con il nostro dottor Lino Nobili, responsabile del Centro di Medicina del Sonno all'Ospedale Niguarda di Milano. Ben trovato anche a lei, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, naturalmente, prima di commentare i 4 indicatori, dottor Nobili, ribadiamo ancora una volta quanto sia importante dormire bene, perché il sonno è una funzione vitale. Lo raccomandiamo spesso questo aspetto, ma in molti in realtà non fanno caso nella maniera appunto necessaria alla modalità con cui dormono. Magari dormono male, in maniera frammentata e disturbata, ma non danno la dovuta rilevanza appunto a questo aspetto della propria vita. Allora magari accendiamo un pensiero nei confronti di queste persone, dottor Nobili. Ma il sonno è una parte fondamentale della nostra vita, occupa un terzo della nostra vita e ha un ruolo molto importante sia per la funzionalità del nostro cervello sia per il nostro corpo, diciamo. Anche proprio di recente è stata di nuovo data la conferma di quello che i ricercatori, tra l'altro sono due ricercatori italiani, Giulio Tononi e Chiara Cirelli, che lavorano negli Stati Uniti, hanno di nuovo dimostrato, come pubblicato su Science, come durante il sonno ci sia un rimaneggiamento delle sinapsi e sia quindi un processo necessario per l'acquisizione di nuove cose che abbiamo imparato durante il giorno, quindi il ruolo del sonno nella memoria, nell'apprendimento. Poi il sonno, sappiamo, è fondamentale anche per la aspetto più vegetativo del nostro organismo, cioè durante la notte noi abbiamo una riduzione dei valori della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, c'è anche un aspetto legato al sistema immunitario, quindi certo, interviene in maniera globale nella nostra salute. Andiamo a questi quattro indicatori famosi citati da questa ricerca e valutiamoli appunto anche nella nostra qualità personale del sonno per capire se dormiamo bene o meglio. Il primo è: a letto si dorme, semplice, no? Ma non per tutti, soprattutto per quei 9 milioni di italiani che soffrono di insonnia. 9 milioni, dottor Nobile, avete un bel da fare, eh? Come specialisti. Beh, è un disturbo molto frequente, poi i numeri chiaramente possono essere un po' ridotti quando si parla delle forme più croniche, quelle che hanno un impatto anche sulla qualità della vita, però sicuramente è uno dei disturbi più frequenti questo, è anche uno dei disturbi spesso non così semplicemente gestibili. Secondo punto, l'addormentamento. Da quando si va a letto devono passare circa 30 minuti, se sono un po' di più è un disturbo da tenere sotto controllo? Ma questo dipende un po' da quante volte questo problema si verifica. Sicuramente se più volte alla settimana abbiamo difficoltà a addormentarci, ci mettiamo più di 30 minuti, questo significa che c'è qualcosa che non va. Spesso qui si fa l'errore di volere dormire a comando, questo è il primo grosso errore che fanno le persone, dico ecco è l'ora di andare a dormire, devo cercare di dormire. Nel momento in cui si vuole assolutamente dormire è proprio il momento in cui non ci si riesce. Ah sì, certo. Bisogna andare a dormire quando il corpo, l'organismo dà manifestazione di sé, con il rischio anche magari per certi periodi di dormire di meno, ma questo serve poi per avere un sonno migliore nelle notti successive. Certo. Il tema risvegli: una volta che ci si è addormentati può capitare di riaprire gli occhi, magari per andare in bagno, per bere un bicchiere d'acqua, mai però più di una volta a notte, ribadiscono gli esperti. Siete tutti dei grandi sostenitori del tutta una tirata, no? Se ci si sveglia almeno due volte a notte, io sono veramente una malata, dottor Nobili, perché no, mi sveglio un sacco, però sto non benissimo. Direi così. Molte persone si svegliano più volte nella notte, e magari si alzano qualcuno per far pipì, qualcuno si rigira dall'altra parte, si addormentano. Quello che conta è quanto tempo si rimane svegli e poi se ci sono, per esempio, se lei si sveglia 3-4 volte per notte per pochi secondi, il giorno dopo sta molto bene, non c'è nulla di strano. Tutti quanti ci risvegliamo durante la notte, c'è chi ne ha la percezione immediata e chi no. Quello che conta è poi come si sta durante il giorno, certo. Quindi, e qual è il motivo che ha portato al risveglio. E infatti speriamo di aver risposto anche a Fabrizio, che ci scrive su WhatsApp: mi sveglio un paio di volte per notte per andare in bagno, ma poi mi riaddormento subito. Quanto fa male? Dipende da quanto ne soffre appunto nel corso della giornata. Se non ne ha una percezione così drammatica, evidentemente nel suo caso non c'è niente di strano. Sempre meglio che fare la pipì a letto da adulti, no? Meglio alzarsi e andarla a fare. Per definire una buona qualità del sonno si deve guardare anche a quanto tempo appunto si impiega per riaddormentarsi una volta svegli di notte. Allora, quali sono i criteri dei medici? Questo vale un po' la stessa regola dell'addormentamento, no? Se uno si sveglia durante la notte e poi per riaddormentarsi ci vogliono altri 20, mezz'ora, quindi a questo punto non solo quindi si ha una alterazione della continuità, ma a questo punto si riduce anche la quantità di sonno, e tra le varie cose che sappiamo è che è importante anche un po' la quantità del sonno, ogni sua età ha una sua durata necessaria, quindi se ci si mette più di 20 minuti, 30 minuti, questo risveglio infrasonno comincia a essere disturbante. Possono anche essere, immagino, dottor Nobili, delle fasi della vita, magari questi risvegli notturni possono essere legati a una condizione un po' problematica della propria vita personale, allora è magari un problema da gestire in una certa modalità. Il tema è capire se è una condizione strutturale, patologica, durante la quale deve intervenire invece uno specialista. Tra l'altro, come intervenite poi voi per migliorare la qualità del sonno delle persone? Di questo con Nicoletta abbiamo parlato un po' meno, comunque adesso non mi ricordo, di puntate recentissime che abbiamo fatto su questo, su come si interviene per ripristinare un po' la qualità del sonno. E questo appunto dipende, bisogna prima di tutto inquadrare qual è il disturbo, se è un disturbo dell'addormentamento o se è un disturbo caratterizzato da risvegli multipli, sono due cose molto diverse che qualche volta possono avere una, l'approccio può essere efficace in entrambe, ma spesso ci vuole in realtà, sono necessarie indagini diverse a seconda del disturbo dell'altro. Ad esempio la difficoltà di addormentamento e poi se il sonno è continuo spesso è legato a un fattore d'ansia, delle cattive abitudini, quindi lì si mettono insieme una serie di cose tra l'igiene del sonno, alcune tecniche così che noi chiamiamo cognitivo comportamentali per togliere quella paura di perdere, di riuscire a addormentarsi. Per la frammentazione bisogna spesso in realtà anche approfondire con degli esami, capire se c'è qualcosa che determina la frammentazione, c'è qualche fattore esterno che venga da un aspetto legato al movimento, alla respirazione e ad altre cose che sono più intrinseche ai disturbi del sonno stesso. Dottor Nobili, noi stiamo andando verso la conclusione. Nella seconda parte della nostra trasmissione questa mattina parleremo di lavoro, di tutte le preoccupazioni che questo tema provoca in molte persone. Quante volte le persone vengono da voi con disturbi del sonno legati anche proprio alle difficoltà di essere in una condizione di soddisfazione nel mercato del lavoro? Le faccio fare adesso una... Certo. Assolutamente, guarda, ci sono tutte e due, ci sono vari aspetti legati al lavoro. Il primo, quello che dice lei, una delle cause più frequenti di insonnia ultimamente è proprio questa, le preoccupazioni legate al lavoro, di chi non ce l'ha o di chi in eccesso le richieste, e questo è una cosa abbastanza banale, ma in realtà è assolutamente frequente. Un altro aspetto è quello che certe volte il lavoro crea il disturbo, come per esempio il lavoro a turno, il cambio dei ritmi legati ad esempio all'eccessivo lavoro, alla fine può portare a una deprivazione di sonno. Un terzo aspetto legato al lavoro è che alla fine la problematica del sonno, quindi l'insonnia, la deprivazione di sonno, la sonnolenza può aumentare il rischio di incidenti sul lavoro, anche di alterate performance sul lavoro, quindi è un aspetto abbastanza importante. Quindi questo, se si dorme male, ecco, attenzione anche a tutte le conseguenze e le ricadute in questi termini. Dottor Nobili, grazie molte per essere ritornato con noi, a presto. Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, ma torniamo tra pochissimo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Cuore e denari. Eccoci qui, allora, il tema del lavoro, come promesso, preannunciato, il tema del lavoro che rimane sempre uno dei nostri preferiti, e anche noi, come molti altri colleghi giornalisti e non solo, siamo rimasti molto colpiti dall'ennesima storia apparsa sui giornali negli ultimi giorni, che racconta dell'imprenditore veronese, patron di una nota catena di ristoranti giapponesi, che non trova personale, che si è lamentato duramente anche della qualità dei colloqui sostenuti con i candidati che spesso non si ripresentano magari ad un secondo colloquio dopo aver capito di che tipo di lavoro si tratta, o insomma comunque di curriculum ne riceve anche poche. Adesso che ha lanciato questa provocazione sui giornali, in realtà è stato travolto dai curriculum, quindi magari sarà accontentato, ma tanto ci è bastato per decidere di ritornare sull'argomento, un tema gigantesco con mille sfaccettature. Ci sono da una parte i giovani fra i 15 e i 24 anni, una fascia d'età in cui la disoccupazione, come sapete, in Italia è tornata ad essere superiore al 40%, giovani che proprio non sanno dove sbattere la testa per avere la prima opportunità di impiego. E poi ci sono gli over 40 e over 50 che lamentano scarsa attenzione nei loro riguardi e hanno enormi difficoltà a reimpiegarsi o a reinventarsi professionalmente, molto più dei ragazzi. Tutti si sentono comprensibilmente trascurati, dimenticati, lasciati ai margini, lavoratori disoccupati, ma anche aziende che pure spesso non riescono a far capire i bisogni che hanno e devono lasciar scoperte molte posizioni, caselle che nessuno sembra essere in grado di riempire. Dov'è il problema? Questo è quello che ci chiediamo oggi. Noi direi che possiamo subito partire con una scheda che abbiamo preparato, appunto, e che ci ripropone un po' l'indagine che vi anticipavo anche prima, che ha fatto nei giorni scorsi Union Camere e Ministero del Lavoro. Da questi dati partiamo per commentarli poi con i nostri ospiti. Chi cerca, trova. È sempre più difficile credere alla celebre massima, soprattutto per chi le proprie ricerche deve intraprenderle nel temuto mondo del lavoro. Fa fatica a trovare un posto chi cerca occupazione, e questo ce lo confermano sistematicamente i dati Istat. Ma fanno fatica, spesso, anche le aziende a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno. Nel primo trimestre 2017 capiterà in un caso su cinque, secondo alcune recenti proiezioni Unioncamere. Tra i posti offerti, il 22% è destinato a posizioni qualificate. Un numero in netta crescita rispetto al 17% del 2016. Si cercano, e non si trovano, profili dirigenziali o tecnici, ingegneri, architetti, ma anche operai specializzati. L'asticella si alza ulteriormente se si considera che nel 66% dei casi è richiesto come requisito fondamentale avere già alle spalle un'esperienza lavorativa, quota che supera il 75% in settori come le imprese di costruzioni, la comunicazione e i servizi turistici e di ristorazione. Sembra chiaro, insomma, che il cuore del problema stia nella difficoltà a far incontrare la domanda e l'offerta. E a tal proposito non può non interrogarsi il mondo della scuola e della formazione. Non solo quella universitaria, se si considera che il livello di istruzione maggiormente richiesto per le assunzioni di questo inizio d'anno, 41% dei casi, è il diploma di scuola media superiore. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Naturalmente mi aspetto tante richieste di partecipazione da parte vostra, speriamo di poterne sentire qualcuna. Abbiamo una scaletta ricchissima, ma voglio raccontarvi anche quello che ci è successo ieri. Io non lo faccio mai, ho provato a mettere su LinkedIn l'annuncio che avrei fatto appunto questa trasmissione, proprio perché mi sembra molto curiosa questa tendenza. Aziende che sono a caccia di curricula, mi chiedono appunto gli ascoltatori di pronunciare correttamente il plurale dei curriculum, e appunto lavoratori che invece rimangono a casa e non trovano adeguate opportunità professionali. Vi dico che questo post è stato centinaia di volte condiviso e ha avuto in questo momento 19.934 visualizzazioni. Non credo per il fatto di essere io particolarmente famosa, ma perché credo di aver centrato un tema. Allora, Alberto Bassi, amministratore delegato di Back to Work, ben trovato, ciao. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. Intanto buon compleanno. Grazie. Perché Back to Work proprio oggi celebra i suoi primi 5 anni di vita, e poi lo abbiamo invitato anche per questo, ma anche per il delicato lavoro che fa con questa società. Alessandro Nodari, direttore marketing e comunicazione di Digroup, una grande agenzia per il lavoro. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Anche per voi tema naturalmente molto caldo, e abbiamo in collegamento telefonico anche Nicola Uva, Strategic e Marketing Director di ADP, un'altra grande agenzia. Io parlo molto di voi, Uva, soprattutto quando negli Stati Uniti anticipate il dato sulla disoccupazione americana nel settore privato, anticipate il dato ufficiale. Appunto, vero? È vero, buongiorno a tutti. Sì, è vero, abbiamo un istituto di ricerca che si chiama ADP Research Institute, che sulla base di una, insomma, popolazione statisticamente rilevante, considerate che un dipendente su 6 negli Stati Uniti gestito da ADP riesce a fornire il trend sull'occupazione circa una settimana prima dell'agenzia governativa americana, con un livello di aderenza poi al dato reale molto molto più vicino, e quindi viene considerato da tutti come un dato molto affidabile. Bene, parleremo però più che degli Stati Uniti ovviamente del nostro paese, perché qua il problema, la vera emergenza è tutta domestica. Adesso negli Stati Uniti ci penserà Trump a fare quello che deve dare, ma là sono ad un tasso di disoccupazione sotto il 5%, perché un regime quasi di piena occupazione, per cui la condizione è molto diversa, un mercato molto più flessibile. Noi stiamo andando verso questa flessibilità, ma ancora con grandi resistenze da parte un po' di tutti. Allora vorrei cominciare subito a sentire Digroup che cosa ne pensa del tema generale, per come l'abbiamo posto. Ho fatto molta fatica a costruirmi una scaletta precisa che avesse un percorso, perché in realtà appunto proprio anche alla luce di quello che raccontavo poco fa, i commenti che sono arrivati su come ho posto l'argomento su LinkedIn sono stati di ogni tipo. Le aziende mi hanno dato ragione, cercano dei profili molto specializzati, i lavoratori ovviamente non hanno tutte le competenze che in questo momento stanno chiedendo le aziende, che stanno andando anche verso il territorio nuovo e completamente inesplorato dell'industria 4.0, la scuola che non forma, c'è l'alternanza scuola-lavoro, ma anche lì con tutti i limiti e le problematiche. Le agenzie del lavoro che cosa dicono? Beh, partiamo da un dato che è quello stato espresso dalla scheda. C'è un grande mismatching tra domanda e offerta del lavoro. Da un punto di vista, l'offerta del lavoro riguarda soprattutto profili che sono profili specializzati. Quindi in questo momento, come agenzia per il lavoro, noi stiamo riscontrando una grande richiesta da parte delle aziende, che sono sempre un passo avanti ovviamente, su profili dell'information technology e dell'engineering. Tu hai parlato dell'industria 4.0, le aziende già si stanno buttando sui profili che possono gestire questo, che è un importante cambiamento. Ma non è detto che l'azienda cerchi l'esperto di robotica, molto spesso anche il perito informatico è più che sufficiente, non c'è neanche quello in circolazione. Assolutamente, diciamo che c'è un'offerta di questi profili che è molto inferiore rispetto a quello che in questo momento sta domandando il mercato. Da qui una frustrazione generale, frustrazione delle aziende che non trovano i profili, frustrazione invece delle persone che si trovano magari disoccupate, perché ricordiamo il dato, più del 40% di disoccupazione giovanile, con dall'altra parte le aziende che stanno cercando. Certo. Noi cosa abbiamo fatto da questo punto di vista? Ci siamo accorti che una delle soluzioni può essere quella di formare le persone, ovvero sia dare alle persone che hanno già delle basi di conoscenze importanti quell'ultimo miglio di conoscenza che possa renderle impiegabili nel mercato del lavoro. Mi riferisco per esempio alle academy che noi abbiamo realizzato con Quibit, che è la nostra divisione specializzata nell'information technology. Abbiamo realizzato nel 2016 circa 60 academy, che sono dei veri e propri corsi di formazione specialistici su laureati di discipline scientifiche, quindi sto parlando di fisica, di matematica, che hanno un substrato importante di conoscenza, ma che mancano di quella technicality che li possa rendere impiegabili per aziende che operano nell'information technology. Ebbene, con questa academy... Esatto, la ricaduta concreta della vostra iniziativa... La ricaduta concreta è stata stupefacente, perché hanno partecipato circa 800 persone con questi profili e il 98% di queste persone ha poi trovato un lavoro a tempo indeterminato o presso i nostri partner, perché ovviamente queste academy le facciamo in partnership con aziende che stanno cercando questi profili, oppure al di là dell'ecosistema generato da questi partner. Quindi questo significa che manca in Italia ad oggi proprio quello che noi chiamiamo l'ultimo miglio, certo, di conoscenza, che serve per rendere impiegabili persone che altrimenti qualche non lo sarebbero. Qualche azienda lo fa per conto suo, poi racconteremo anche qualche testimonianza. D'altra parte c'è anche un'altra questione che sollevano appunto mismatching, e molto pochi lo capiscono, ci sollevano ascoltatore, il match è l'incontro tra domanda e offerta. No, stavo appunto considerando anche che invece un'altra questione grande che stanno sottoponendo anche molti ascoltatori, lo stesso l'hanno fatto ieri sempre alla luce di questo post su LinkedIn, è che in realtà molti annunci di lavoro, appunto riconoscendo che ci sono le opportunità, ci sono, ma le aziende chiedono anche esperienza per certi profili magari molto particolari, e questo è un altro limite appunto che i lavoratori fanno fatica a superare. Alberto Bassi, Back to Work compie oggi 5 anni, c'è un'iniziativa proprio qui nella serie del Sole 24 Ore per celebrare i vostri primi 5 anni di vita, ci sembra la giornata giusta per invitarvi a parlare di questo argomento. Lo ricordiamo, la vostra non è un'agenzia per il lavoro, quantomeno nella modalità classica come la concepiamo. I vostri match fra domanda e offerta sono particolari. E, cosa ne pensi del tema da cui siamo partiti prima di andare a raccontare, appunto a riaccontare di nuovo ai nostri ascoltatori che cosa fate esattamente, come avete provato a gestire le problematiche del lavoro in questi anni? Beh, evidentemente è un tema scottante perché il post che hai fatto ne è dimostrazione, ha avuto moltissime visualizzazioni. Io lo vivo in maniera particolare, nel senso che, come hai detto tu, la nostra non è un'agenzia per ricollocare le persone, ma offre comunque un'opportunità di carriera a quei manager che sono fuoriusciti dal mondo del lavoro. Esatto. Noi parliamo sempre di disoccupazione giovanile, però la disoccupazione dei quarantenni e cinquantenni è ben più grave se la analizziamo per il fatto che hanno una famiglia da dover sostenere. Esatto. Perdere il lavoro a quell'età vuol dire difficilmente trovarne un altro, e noi offriamo con il nostro network l'opportunità di trasformarsi in imprenditori. Quindi non entri di nuovo nel mondo del lavoro come eri abituato prima, devi fare un cambio di mentalità, è un po' una rivoluzione culturale, a me piace sempre dirla in questo modo, trasformare il manager abituato alla grande azienda in un imprenditore che entra in una piccola realtà e porta tutto quel bagaglio di competenze che ha maturato in anni di carriera. Però la cosa interessante è che io vedo anche un sacco di ventenni. ventenni che vogliono fare gli imprenditori. Eh sì, anche perché non diamo molte altre alternative, esatto. Quantomeno concettualmente proviamo a spingerli verso su un terreno diverso rispetto al lavoro, esatto, il posto fisso. Però quello che di cui mi rendo conto è che forse ogni tanto noi pensiamo sia... Io ho 30 anni, quindi sono appena uscito dai 20. Ma infatti, volevo dirlo. Quindi sono parla vicino. Parla come un attore consumato, sì, del, esatto, mercato del lavoro, ma in realtà, esatto, è giovanissimo, Alberto. Sono vicino a quest'età e ne capisco abbastanza bene le problematiche. Però vedo che c'è molta voglia da parte di questi 20 anni di mettersi in gioco. E quindi il mercato del lavoro va in questa direzione. Il posto fisso non esiste più. È inutile che ci prendiamo in giro, non esiste più e io non sono convinto che esisterà ancora. E probabilmente i ventenni l'hanno capito prima, sì, sì, e no, si ma stanno mettendo in gioco in modalità diverse. Sono un po' i limiti spesso anche familiari che si vivono e che ti stringono all'interno di una gabbia di sicurezze che naturalmente quale famiglia non vorrebbe proteggere suo figlio e vedere, chiaro, tutta la solidità. Ieri abbiamo parlato delle giovani coppie che vogliono mettere su casa, comprare casa con il mutuo, abbiamo parlato del fondo di garanzia dello Stato perché ha bisogno comunque per entrare in banca di avere una garanzia terza per poter ottenere un mutuo. Il lavoro è la prima garanzia e quindi è chiaro che fino a quando c'è anche quest'altro match che non funziona, no? Nodari, che dice? Assolutamente sì, tra l'altro mi ricollego a quello che diceva Alberto prima. Sono d'accordo, i ventenni di oggi hanno abbandonato da tempo il paradigma del posto fisso che probabilmente appartiene, ahimè, io non ho 30 anni come Alberto. Ma noi ce ne abbiamo pochi di più adesso. Noi ne abbiamo pochissimi di più. Bisogno. Appartiene più alle mie generazioni. Oggi noi ci troviamo di fronte ad un momento di passaggio, assolutamente di passaggio. Passaggio tecnologico, abbiamo parlato dell'industria 4.0. Passaggio legislativo, il Jobs Act ha cambiato tante cose. Il tema oggi è quello dell'occupabilità, dell'employability, ovvero sia costruirsi un set di competenze che permetta alla persona non di essere impiegabile nel posto di lavoro, nello stesso posto di lavoro per 10 anni, perché ormai questa cosa non esiste più, ma un set di competenze che permetta alla persona di essere impiegabile nel mercato del lavoro. Questa è una cosa molto molto, mm-hmm, differente ed è questo quello su cui dobbiamo puntare, devono puntare le agenzie per il lavoro, le aziende e poi anche tutto il sistema educativo. Guardi, c'è già una testimonianza pronta ad andare in onda da parte di Nicola dalla provincia di Napoli, però vorrei completare il ragionamento fatto fino a questo momento con Nicola Uva di ADP. Allora, quali sono le professionalità che si candidano presso il vostro circuito, quelle che fate fatica a collocare perché magari i curriculum sono insoddisfacenti, Uva, le aziende che cosa chiedono, sono di pretese insostenibili, insomma le professionalità chieste dalle aziende, dove sta il problema? Allora, premetto che noi non lavoriamo con le aziende e non con non abbiamo percorsi di formazione con le persone. Secondo me è importante partire dal contesto. Cito alcune ricerche di ADP molto recenti sull'Italia. Allora, in Italia noi abbiamo intervistato un campione di 10.000 persone, l'88% di questo campione vorrebbe lavorare all'estero, la maggior parte in Germania come primo paese. L'Italia, rispetto ai paesi dell'Unione Europea, è al 10° posto tra i paesi in cui gli altri europei vorrebbero lavorare, quindi non è un paese ricercato, cioè, non all'estero appeal per lavoro. Inoltre, vabbè, l'Italia tra i 34 paesi dell'OCSE è il paese che ha il tasso di laureati più basso, è l'ultimo posto. E poi dovremmo anche scandagliare il tema della lingua, della capacità appunto di parlare sulla lingua, la vostra indagine. Uno su tre vuole lavorare all'estero, ma hanno problemi con le lingue. Lo so. Quindi sostanzialmente abbiamo un contesto in cui i lavoratori che cercano le aziende cosa cercano? Cercano lavoratori di qualità, già preparati, super fighi sostanzialmente, dall'altra parte c'è penuria di questo tipo di lavoratori. E d'altronde se a questi qua nessuno gli dà una prima opportunità quando cominciamo a formarli, per cui... Sì, però non è solo questo, c'è proprio una percentuale bassa di laureati, chi va all'estero perché non vuole rimanere in Italia, dall'estero non arriva nessuno e quindi insomma la popolazione tra cui l'azienda può pescare è sicuramente ridotta, per cui noi cerchiamo di lavorare sulle aziende lavorando sul tema dell'employer branding, ovvero aiutare le aziende a farsi conoscere, a diventare appeal per quella purtroppo piccola fetta di talenti viene un po' contesa tra le aziende. Il problema quindi è grosso, è un problema di formazione e di accompagnamento e anche di prima opportunità, però non è tutta la colpa, non è tutta colpa delle aziende. Le aziende purtroppo hanno un bacino da cui pescare molto molto limitato. Ecco, cioè, ci aggiungo anche un altro tema che è molto caro a Back to Work. Il tema è che magari anche il laureato che esce dall'università, ma anche il diplomato che così ha non ha la vocazione appunto per proseguire gli studi, in realtà comunque come primo approccio è quello di rivolgersi alla grande azienda, al brand importante, alla multinazionale, mentre Back to Work ha fatto un lavoro molto più incisivo nel mondo della piccola e media impresa italiana, che ha un appeal forse un po' inferiore tra i giovani che cercano la prima opportunità professionale. Sì, è chiaro che la grande azienda per un giovane ha un appeal particolare, no? Lavorare per un grande nome, però noi, il nostro tessuto produttivo è fatto di microimprese. Il 95% del tessuto produttivo italiano sono aziende che fanno da 1 milione ai 15 milioni di fatturato, quindi piccole realtà che però magari esportano in tutto il mondo, hanno potenzialità interessanti, hanno sviluppato prodotti innovativi, sono quelle che io vedo tutti i giorni nel mio lavoro. Quindi provare anche questo canale in cui si ricercano figure professionali, si può partire magari da una posizione un po' diversa rispetto a quella che ricopriresti in una grande azienda, ma hai molte possibilità di crescita e soprattutto in una piccola realtà puoi occuparti di tante cose contemporaneamente, che è forse la cosa più interessante e stimolante. No, Dario, vedo che annuisce. Sono perfettamente d'accordo. È vero che il giovane laureato ha come appeal quello della grande azienda, della grande multinazionale, per carità, giustissimo, scelta condivisibile. Ma noi abbiamo tantissime realtà. Parlava prima Alberto di piccole realtà, ma sono realtà veramente dal punto di vista tecnologico avanzatissime. Esatto. L'Italia dal punto di vista tecnologico della meccatronica e ancora, ripeto, dell'industria 4.0, non dico che sia l'avamposto d'Europa, ma se la gioca tranquillamente con la Germania. E come diceva Alberto, entrare in queste realtà permette al giovane non solamente di vedere come potrebbe essere invece una realtà più strutturata, solamente un pezzettino del processo, ma permette di vedere tutto e quindi di farsi una conoscenza, un'esperienza che altrimenti in una grande realtà si potrebbe fare solamente su un pezzetto. Nicola dalla provincia di Napoli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci dica. Ho ascoltato con interesse, in realtà tutto quello che ho sentito poi collima con la mia esperienza. Siamo in un momento di transizione e sarebbe necessaria una scuola liquida in grado di formare delle competenze di base che poi all'occorrenza vengono approfondite con i tanti corsi di formazione che oggi si trovano in giro sulle più disparate categorie. Quello che in realtà non riesce a venire, io ho un'esperienza anche in un consiglio d'istituto di un comprensivo statale, quello che purtroppo non si riesce a fare è portare ai ragazzi questa necessità, quindi avere la capacità di formarsi adeguatamente su tutte quelle che sono le nuove professioni. Dall'altro poi ci sono le imprese, che quelle che funzionano e vanno bene cercano profili che non trovano, altre invece sono ancora restie, ancorate a modelli di business che appartengono ormai al passato. Certo, e poi ci mettiamo anche un po' l'incertezza della legge nel nostro paese, naturalmente non sai mai se puoi prendere l'iniziativa. Riguardo invece ai giovani che si formano, quelli che si formano chiaramente sono le punte di eccellenza, ai ventenni che oggi vogliono fare gli imprenditori, non è perché non trovano il posto fisso, ma perché incontrano aziende che non hanno la capacità di attrarli e quindi partono e vogliono fare gli imprenditori. Quando fanno gli imprenditori poi hanno il problema di non trovare persone che sono in grado di soddisfare le esigenze. Insomma, è un circolo vizioso, certo, che non viene... Grazie non Nicola. Fare l'imprenditore non è che ci si inventa, bisogna anche avere lì sicuramente una bella vocazione, la capacità di trovare anche tutto il sostegno adeguato, riuscire a gestirsi anche in tutta la burocrazia, perché pure lì non è che è tutto mondo di app che la crei, la fai, va a finire sullo smartphone e diventi milionario. Ci sono anche attività di impresa legate alla manifattura, quindi partire appunto in altri ambiti che sono un po' più difficili. Adesso ci fermiamo, sono già le 11:30, vi racconto rapidamente cosa succede in borsa e poi daremo spazio a tanti altri ascoltatori. Vi leggerò anche alcune mail che mi sono arrivate ieri da parte di alcune aziende che cercano, mi dicono la loro sulle motivazioni per cui non riescono appunto a trovare professionalità. Peraltro mi ha colpito anche che mi abbiano scritto aziende molto tradizionali. Vi faccio un esempio, mi ha scritto stamattina Cristina di Bologna ha un'agenzia di produzione fotografica e video, sono sempre alla ricerca di creativi, mi dice, in particolare cerco fotografi su Bologna, quindi non mi pare una ricerca di un profilo particolarmente tecnologico, digitalizzato, legato all'industria 4.0. Le fotografie che fa appunto il sito di Cristina sono in particolar modo nel food, quindi anche qui un tema assolutamente gettonatissimo in questo momento, ma dice non mi arriva niente di degno di essere preso in considerazione. Per cui adesso vi daremo anche i riferimenti di questo sito e la società si chiama Lala, www.lala.tv, andate a vedere se siete dei fotografi su Bologna, c'è una bella opportunità per voi tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Cuore e Denari. Allora, per questa puntata del tutto speciale di Cuore e Denari, così ricca di contributi, adesso ne abbiamo tanti pronti appunto ad ascoltare, abbiamo deciso anche di fare un live su Facebook, per cui potete seguirci anche sul profilo di Radio 24. Appunto in questo momento siamo in diretta con Alessandro Nodari di G-Group, con Alberto Bassi di Back to Work e con tutti gli ascoltatori pronti ad intervenire. Ovviamente i commenti sull'argomento si sprecano, hanno diverse sfaccettature. C'è un messaggio carino di un 25enne, sono un operaio e dice vorrei migliorarmi, che cosa ne dite se frequentate un corso universitario online? Perché no, Alessandro Nodari? Perché no, sicuramente. Però prima di parlare ancora del corso universitario online, sì, no, è necessario... No, perché magari lo combina bene con i suoi tempi della sua giornata lavorativa, no? Piuttosto che andare a fare un corso di formazione di altro tipo che gli richiederebbe magari prendersi dei permessi, non so, però... Lui è un operaio? Sì. Allora, io il consiglio che gli darei è perfetto il corso universitario online, gestire i tempi e così via, ma il tema è specializzati, vai su una specializzazione, perché dal nostro punto di vista agenzie per il lavoro noi abbiamo iniziato 20 anni... la laurea in filosofia che magari è la sua vocazione originale. No, ho grande rispetto per le vocazioni, no, ma penso che per fare un esempio, le con vocazioni tutto devono essere sempre messe a fianco di una seria analisi di mercato. Quindi ti dicevo, agenzie per il lavoro hanno iniziato 20 anni fa, abbiamo iniziato con profili generici e sempre di più, soprattutto negli ultimi 2 anni, stiamo accorgendo che le aziende cercano profili specializzati, anche noi stiamo andando su questi profili, quindi il consiglio che do al nostro amico, benissimo il corso online, guardati intorno, ma specializzati, fai un'analisi di mercato, di quello che oggi chiede magari il mercato del lavoro. Magari vedi qual è il corso universitario che ti può servire potenzialmente per crescere anche nella tua azienda o cogliere altre opportunità professionali in questo, nel settore. Assolutamente sì, perché molte volte si dice il mio futuro è fuori dall'azienda in cui sono, non è detto, con una specializzazione invece sono bei percorsi anche all'interno dell'azienda. Silvio dalla provincia di Cuneo è un imprenditore, buongiorno. Buongiorno, beh, intanto io mi leggo all'ultima affermazione, io sono uno di quelli che lavorando si è laureato, mi sono laureato in scienze e tecnologie alimentari, io mi occupo di cioccolato, di alimentazione. Che lavoro Silvio, mi piace molto, vorrei fare un colloquio da lei, ecco, come assaggiatrice, tester ufficiale. Ecco, avete detto un sacco di cose veramente belle e assolutamente interessanti. Io sono una di quelle aziende che fattura da 1 a 15 milioni di euro, esportiamo in Giappone, siamo leader su quel mercato. Il problema grande che abbiamo non è quello di crescere, è quello di trovare figure in grado di poterci aiutare a crescere, no? Ho preso in stage con la possibilità di assumere 2 laureati che abbiamo fatto un lavoro fantastico e poi dopo l'esperienza che hanno fatto da me sono stati assunti da grandi aziende, da io sono parte. Felice per loro. Però sarebbero serviti per farmi fare quel salto qualitativo a livello di fatturato utile. E quindi lei adesso deve riazzerare, riprendersi altre persone, riformarle magari con il rischio che poi se ne vada. Volevo solo entrare nel succo del discorso, che è questo. Moltissimi ragazzi che vengono a fare i colloqui, adesso a parte escludendo tutti quelli che vengono con i genitori, che direi ai genitori di chi va a fare colloqui di starsene a casa, perché fanno più danni. Qui che mi servirebbe Nicoletta, insomma, per... sostenermi. Ecco, dicevo, invece è questo, cioè spesso nei ragazzi che vengono a cercare lavoro denota una certa arroganza, una certa supponenza che invece quando un'azienda assume è tutt'altro che supponente e quando vuole assume persone che siano tutt'altro che supponenti, perché io voglio persone che sposino i miei progetti, non il mio stipendio. Non le piace perché... Silvio, l'atteggiamento, la devo salutare perché ho tantissime persone da ascoltare. Il tema dell'atteggiamento, guardi, ho preso questa parola al volo perché voglio dare un assist host al prossimo intervento che voglio proporre ai nostri ascoltatori, quello di Riccardo Montanari, che saluto. Riccardo, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Trainer, executive coach, quindi anche qua utilizziamo ancora parole in inglese per descrivere la tua professione, Riccardo, ma io in realtà più che della tua professione voglio parlare della tua esperienza personale, perché tu hai perso il lavoro qualche volta nel corso della tua vita. 3 volte esattamente. Ecco, sì. Però dici, corretto, anche non ho mai fatto un giorno senza lavorare. Sicuramente lo spirito con cui mi sono presentato di fronte a, non so, imprenditori presso i quali mi candidavo, magari era, ecco, era di un certo tipo. Raccontaci, certo, un po'. Sì, ho perso lavoro 3 volte per cause esterne alla mia volontà e non sono mai stato un giorno senza lavorare, perché quando c'erano i chiari di luna facevo, come ha detto Alessandro Nodari di G-Group, acquisivo competenze specialistiche, cioè nei momenti di stallo facevo corsi di formazione, cercavo di capire qual era il trend dei mercati in quel momento, quali fossero le specializzazioni richieste in quel momento, e acquisivo competenze. E in più, come dicevi tu, quando andavo ai colloqui avevo un atteggiamento di stay hungry, stay foolish di Steve Jobs, per intenderci, quindi facevo vedere che volevo con tutte le mie forze il lavoro che quell'azienda mi stava proponendo. L'atteggiamento fa completamente la differenza davanti a una persona delle risorse umane, certo, che ci sta intervistando, perché no, poi ci Riccardo... vede motivati, ci vede con un obiettivo. Dimmi. No, stavo pensando anche al ragionamento che ci siamo fatti ieri al telefono. Il tema è che non è che lo fai perché vuoi fare un po' il fighetto presentandoti davanti al datore di lavoro come ti è capitato, ma il tema è che quando c'è bisogno di lavorare bisogna comunque farlo. Le maniche, certo, ecco. Io domani mattina, se avessi bisogno, 2 figli, vado a lavare le macchine, non c'è nessun problema, non ci penso mezzo secondo. Se ho bisogno e mi danno tot, allora io lo accetto, perché la mia esigenza in quel momento è più importante di qualsiasi altra. E quando c'è questo atteggiamento l'imprenditore lo capisce, che era un po' quello che contestava Silvio prima, no? Certo, e voglio anche precisare che io non sono laureato, ma nelle ultime 2 aziende per cui ho lavorato, multinazionali da fatturati di più di 100 milioni di euro, mi hanno preso in una lista di 20 persone fra ingegneri o laureati in economia e commercio che parlavano 3-4 lingue. Mi hanno preso per le competenze che avevo acquisito, certo, durante negli anni, specialistiche nel mio settore, più tutta la parte di comunicazione, coaching, PNL e così via, che sono un po' le nuove tecnologie, i nuovi strumenti per il futuro che fanno la differenza in un curriculum. Certo. Perché bisogna diversificare il curriculum. Riccardo, però ecco il messaggio finale, no, che devo salutarti, okay, perché ho tante cose da fare. Certo. Il tema è, vabbè, l'atteggiamento positivo e questo, diamolo, non dico per scontato perché qualche volta non lo è, ma proviamo a farlo emergere, ma il tema è anche acquisire competenze quando... è il momento giusto per farlo, non quando, certo, si è in discesa nella carriera professionale, ma battere il ferro finché è caldo, migliorarsi durante il momento positivo della carriera anche professionale. Anche a 50 anni, ecco, secondo me, certo, assolutamente. In sì, bocca al lupo per tutto, Riccardo, grazie, teniamoci in contatto, buon lavoro a tutti. Grazie. Roberto Trentini invece è direttore delle risorse umane di Elmec. Ci sì, deve ciao, dire buongiorno, che cosa fa questa azienda. Trentini, buongiorno. Ciao. E soprattutto, buongiorno, voi pure avete la vostra accademia interna, non vi appoggiate all'agenzia interinale per formare le vostre persone, le andate a pescare nelle scuole, le, certo, formate e poi ve le tenete ben strette. Allora, noi siamo il manager service provider di servizi IT per le aziende. Le persone che cerchiamo sono tendenzialmente delle figure tecniche, competenze tecniche, però da sempre abbiamo la cultura della crescita interno, per cui io la faccio un grosso lavoro con le scuole e se possibile anche con l'università per attrarre talenti o potenziali talenti, poi li faccio entrare in azienda con un percorso che si chiama il Back College, è un corso di formazione gratuito prima ancora di entrare in azienda. Con questo percorso io stanno in azienda più di un mese e mezzo. Io riesco a questo punto a riconoscere, dopo un mese e mezzo di formazione all'interno dell'azienda, fatta da formatori interni, mi permetto che di aggiungere, riesco a capire quali sono le persone che hanno un potenziale, su cui poter lavorare. Dopodiché le instrado all'interno dell'azienda, valutando, certo, quelle che sono le posizioni. A prescindere, comunque, io faccio 3 eventi l'anno di questo Elmec College. No, spieghiamo anche che è un investimento non proprio trascurabile per un'azienda, sì, per tutti, sì, quelli che si lamentano del fatto che le aziende non fanno abbastanza in questo senso. Non è che per voi sia poi esattamente una passeggiata, perché dovete fare, no, anche il vostro business. Però, d'altra parte, noi siamo nel mondo delle tecnologie, per cui di fatto la formazione per noi è continua. ed è anche tra l'altro un elemento di attrazione importante, perché parliamo di tecnologie sempre all'avanguardia con clienti sempre importanti. Certo. Elmec, siete a Brunello, provincia di Varese, che figure cercate adesso? Siete ancora a caccia, trentini? Avrò una quarantina di posizioni aperte in questo momento, figure tecniche di primo livello sicuramente, ma anche figure commerciali. A questo punto sulle figure commerciali ovviamente mi muovo su persone senior. Ecco, no, infatti sarebbe stata la prossima domanda, perché è quello che volevo dire, non è che puntate solo sui ragazzi, ma no, insomma certo, questi quarantenni, cinquantenni non è che possono andare tutti da Alberto Bassi a Back to Work. Che dici? No, assolutamente, assolutamente no. Chiaramente per esempio una figura professionale come il venditore, la figura del sales account, di fatto deve avere maturato un'esperienza di conoscenze, di poi sulla parte tecnologica ci si lavora, però chiaramente è importante la competenza, certo, e la relazione. Trentini, grazie per la vostra testimonianza, faremo grazie circolare anche il vostro nome sui nostri social, naturalmente oggi ci siamo candidati a fare da concorrenti a G-Group. Nodari, ci sono alcuni ascoltatori che lamentano il fatto che spesso appunto come agenzie del lavoro voi fate molto di più gli interessi delle aziende che vi assegnano ovviamente delle grandi consulenze per loro, un po' meno invece per i singoli curriculum, chiamiamoli appunto come volete. Insomma, questa è una contestazione che vedo arriva un po' da alcuni ascoltatori che magari non si sentono adeguatamente considerati, magari il curriculum non è degno di essere preso in considerazione perché è scritto in maniera superficiale, non corretta. Perché queste persone si sentono così? Ma io penso che queste persone si sentano così perché è chiaro che alcuni mandano il curriculum vitae e vedono che comunque questa azione non trova dall'altra parte un'adeguata risposta, che significa il posto di lavoro. Le agenzie per il lavoro non hanno nessun interesse a fare l'interesse solamente delle aziende. Le agenzie per il lavoro hanno l'interesse nel trovare il miglior candidato possibile per le aziende, e questo è vero soprattutto in questi ultimi due anni. Utilizzo un termine inglese, purtroppo oggi c'è un fiorire di termini inglesi, dovremo abituarci. Stiamo parlando di un mercato italiano che da due anni a questa parte è molto simile a quello tedesco, perché è un mercato candidate driven, ovvero sia è un mercato che viene guidato da determinate figure professionali, dalla ricerca di determinate figure professionali. Fino a 5-6 anni fa, fino al 2009 con la grande crisi, non era così. Questo è cambiato, è una notizia sicuramente positiva, perché vuol dire che oggi la risorsa scarsa sul mercato sono i candidati. Quindi noi abbiamo tutto l'interesse nel favorire un matching il più possibile completo tra aziende e candidati. Poi certo, ci arrivano, è vero, arrivano dei curriculum vitae che molte volte hanno errori di impostazione, anche errori piuttosto gravi. Noi cerchiamo nel limite del possibile di aiutare queste persone, di indirizzarli nella ridefinizione del loro curriculum vitae, che è il primo strumento di marketing che queste persone hanno a disposizione per affacciarsi, certo, al mercato del lavoro. Alberto Bassi, prima di andare in pausa, tanto per fare anche un po' un bilancio di questi vostri 5 anni di attività, quanti match avete concluso? Quanti manager usciti, magari a volte anche non tanto felicemente ovviamente, da aziende italiane avete ricollocato in altre aziende? Loro portano in dote anche ovviamente qualche volta un po' di risorse finanziarie che iniettano nelle nuove aziende dove portano la loro expertise, la loro competenza naturalmente, ma anche dell'altro, quindi questo è proprio il vostro modello particolare. E poi magari sul tema dei giovani imprenditori, chi sono, ci arriveremo in un secondo momento, ma se dobbiamo proprio un bilancio numerico, se lo dobbiamo stilare? Ma guarda, sono centinaia i manager che hanno in questi anni lavorato con noi, hanno trovato un'occupazione dopo un periodo di difficoltà. L'anno scorso, tanto per darti dei numeri precisi, 50 realtà, piccole realtà imprenditoriali, hanno trovato insieme a Back to Work un complessivo di investimento di circa 10 milioni di euro, che sono cifre spaventose per la microimpresa, dai 200.000 euro al milione di euro, e soprattutto altrettanti manager e investitori che hanno deciso di scommettere su queste realtà, portando qualche centinaia di migliaia di euro, ma soprattutto la propria competenza. C'è grande mobilità, magari il manager che arriva da voi è disposto anche a spostarsi nel nostro paese, perché un altro tema che mi segnala una multinazionale americana che opera anche nel nostro paese, dopo vi leggo anche questa mail di questa responsabile delle risorse umane che mi ha scritto, mi dice che c'è un grosso tema di mobilità geografica vista ancora come grosso ostacolo soprattutto per i giovani. Nel vostro caso lo ha rappresentato? No, onestamente no. È chiaro che ci sono zone del nostro paese che sono più appetibili e in cui è più facile poi trovare anche lavoro, però questo io non l'ho visto, ecco. Benissimo. Il traffico, a tra poco. cuore e denari. Vi raccontavo proprio ieri, mi ha scritto la responsabile delle risorse umane in Europa per un'azienda americana, Cognes Corporation, non mi sono neanche documentata bene su come si pronuncia, è un'azienda pubblica quotata a Wall Street nel mondo dell'automazione e dell'alta tecnologia di visione. Sono andata a vedere che cosa fanno, lettura di codici a barre, scanner, insomma qualcosa di estremamente specialistico. Stiamo crescendo molto in tutta Europa, anche in Italia, soprattutto per profili commerciali. Negli ultimi 6 mesi, mi racconta Manuela, ho avuto modo di intervistare parecchi candidati, ma in Italia, così come in Europa, a dire il vero, è veramente difficile trovare i candidati giusti, o quando sono giusti sulla carta, è difficile che ci impressionino in modo positivo con una bella intervista, anche quando superano tutti i passaggi della selezione. Mobilità geografica è un grosso ostacolo ancora per molti giovani. La reale motivazione ad iniziare una nuova sfida professionale è ancora latitante, e poi c'è la mancanza di una buona dialettica in inglese. Qua mi punge sul vivo, perché pure io lo parlo proprio in maniera inaccettabile, e con questo lavoro è inaccettabile appunto altrettanto. Cosa ne pensate di questa testimonianza, Nodari? Ma non mi stupisce alla luce di tutto quello che ci siamo detti nel corso di questa puntata. Mi colpisce positivamente quando dice che questo non è un problema solamente italiano, ma è un problema europeo, ma proprio perché stiamo veramente assistendo ad una fase di passaggio. Poi sul discorso dei giovani che non sono disponibili a spostarsi per motivi di lavoro, devo dire che io sono più d'accordo con Alberto. Dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, questa limitazione temporale non la vedo. Il giovane d'oggi è molto concentrato sul cosa andrà a fare. Non è più concentrato sul ma voglio il posto fisso, ma cosa andrà a fare, quali saranno le sue mansioni. Deve essere aiutato a capirlo qualche Deve volta, essere assolutamente aiutato infatti. A capirlo. Lo sa molto bene quello che vuole fare Carlo, un ascoltatore che ieri mi ha scritto su LinkedIn, una persona matura, non parliamo di un ventenne. Carlo, giusto, buongiorno, con una ottima esperienza. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, sono maturo, ho 53 anni e sono un geometra, ho oltre 30 anni di esperienza, ma questa diventa in Italia la mia croce. Non sono visto più come un senior, come un tecnico che può apportare vantaggi a un'impresa. In che settore Carlo ha lavorato in questi 30 edilizia, ma in vari settori, pubblico, privato, pubblico prevalentemente, ma anche privato. Ho costruito infrastrutture marine, infrastrutture sotterra, ho costruito residenziale, ho costruito hotel, resort, eccetera. Però attualmente ho notato che c'è una notevole difficoltà, non solo per me, ma per tutti i tecnici della mia età. Allora, la crisi del mercato dell'edilizia è stata abbastanza evidente negli ultimi anni, questo però non significa che sia tutto assolutamente bloccato. Carlo, lei oggi che opportunità cercherebbe? Sarebbe disposto a trasferirsi da qualche altra parte? Dove vive, peraltro? Attualmente a Napoli, però ho lavorato 10 anni in Toscana, ho fatto consulenza in Marocco, ho fatto consulenza in Spagna, in Tunisia. Quindi insomma non è che la mobilità la spaventi. A me per niente, ma proprio per niente, solo che le aziende, le imprese di costruzioni in genere cercano solamente giovani a cui affidare, ahimè, anche mansioni molto importanti, per cui ci vorrebbe comunque una certa esperienza che un giovane assolutamente per il suo campo. Però intanto lo fanno, cioè, anche per una mansione tipo direttore di cantiere, per il quale almeno dovresti avere una 15 anni di esperienza fatta sul campo, la danno a ragazzi di 22-23 anni che si sentono chiamare direttore, e quindi l'orgoglio sale. Però intanto gli danno delle responsabilità civili e penali che magari neanche conoscono. Carlo, io devo salutarla, la ringrazio per la sua testimonianza, speriamo che sollevi l'interesse. Abbiamo una marea di agenzie qui in questo programma, vediamo se qualcuno accoglierà la sua candidatura. Nel settore dell'edilizia, Alberto Bassi, back to work, c'è fermento, è ritornato un po' di fermento oppure siamo ancora un po' in difficoltà? È uno dei settori più difficili anche per noi, nel senso che le aziende che si rivolgono a back to work di questo settore sono comunque aziende che stanno vivendo, hanno vissuto periodi di difficoltà. Noi non abbiamo tante figure professionali che stanno cercando uno sbocco lì, ecco, questo è da sottolineare. però si possono trovare delle soluzioni. È chiaro che è un settore che è stato devastato dalla crisi economica. Infatti. Quindi... Allora, stiamo andando verso la chiusura. Pochi minuti li devo ottimizzare. Prima di sentire il prossimo ospite, che intanto anticipo, è Paolo Ferrario, amministratore delegato di eWork, un'altra grande agenzia di intermediazione. Per sentire la sua testimonianza, gli offro quella di Nicola da Viareggio, perché parla di un settore dove io pensavo ci fosse saturazione totale e invece non è così. Nicola, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, allora lei è un... Allora, io sono un ristoratore, sì. Ho 49 anni, mi considero ristoratore perché ho vissuto entrambi i lati, da titolare e da dipendente. Mm. Attualmente sono un dipendente. Nel mio settore c'è molta confusione, soprattutto da parte dei titolari, perché le personaggi che vengono richiesti sono sempre molto giovani, poca esperienza e bassissimi investimenti sulla professionalità in sala. I chef sono diventati delle star imprescindibili e comunque bisogna sempre mangiare bene al ristorante, ci mancherebbe, però il servizio ha anche quello la sua estrema importanza. Beh, insomma, Cannavacciuolo è molto, molto rigido su questo, non è che ci si improvvisi in questo settore, anche se lui è diventato una star, peraltro un grande amico di Cuore Denari, viene spesso da noi. Nicola, la ringrazio per la sua testimonianza, perché proprio anche di questo settore, negli ultimi minuti che ci rimangono, volevo parlare con Paolo Ferrario, che ha poco tempo a sua disposizione, ma lo richiameremo, perché proprio tra le offerte che in maniera più intensa voi intermediate, ci sono proprio quelle che gravitano attorno a questo campo. Quindi, nonostante tutti i reality show, il food sia diventato ormai il settore che sembra risolvere i problemi di lavoro di tutti, in realtà si è alzata anche l'asticella della qualità richiesta, per cui non ci si può più improvvisare assolutamente neanche qua. Ferrario. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, esattamente. Diciamo che, collegandosi alla parola del reality, poi la realtà è un po' diversa, nel senso che il settore alberghiero e della ristorazione, anche la ristorazione all'interno degli alberghi di lusso, ha sempre avuto un incremento in tutto il 2016 e lo sta dimostrando anche in questi primi mesi del 2017. Noi abbiamo tantissime ricerche aperte, credo quasi 140-150 anche in questo momento, su diverse città, Roma, Torino, Acquiterme, Arona, quindi nelle più disparate zone geografiche. Parliamo di cuochi, chef de rang, barman, responsabili di sala, quindi davvero tanti profili e di tante tipologie. E quindi andando su eWork, se ci sono naturalmente delle persone che cercano in questo campo, vi potete candidare, ma naturalmente la qualità richiesta oggi come oggi è sempre alta. Non riesco ad andare oltre, Ferrario, la invito di nuovo al più presto, perché voi avete anche tante posizioni aperte appunto in tanti altri campi, soprattutto nel settore informatico che veniva segnalato da Nodari, quindi io lo dico anche alle famiglie, mamme e papà che siete in questo momento, adesso ormai le iscrizioni per l'anno scolastico, per il superiore appunto si sono concluse, ma il tema è questo, andato verso questi settori per i quali appunto c'è bisogno nel mondo del lavoro. Allora, speriamo di non aver fatto confusione, gli stimoli che sono usciti sono veramente tanti, ci ritorneremo, promettiamo sempre con un magari percorso un po' più strutturato, perché il tema del lavoro non è un tema importante, è il tema. Grazie ad Alberto Bassi, buon compleanno per Back to Work, ancora. Grazie ad Alessandro Nodari, noi torniamo con Nicoletta domani, a tutti buona giornata.